case la sera, non indugi sulla strada, e i tuoi pensieri sono come barche tristi sulla Darsena. Di sguincio guardi il mare che ora temi, e in cui appena ieri volevi naufragare, ed ora tremi contro il vento che spegne l'eco ormai dell'allegria che fu. Tremi contro il vento che spegne l'eco ormai dell'allegria che fu. Già questa estate con le altre si confondono le facce, ancorato in questo posto traccio coi pensieri nuove rotte verso vite parallele, e vedo mille volti ed altri porti, suoni di lingue sconosciute mi avvolgono di un'orbe senza tempo, e intanto come uno straniero tra file di alberi spogli passo e vado via. E intanto come uno straniero tra file di alberi spogli passo e vado via.